Non, nein, no, nada à la niette. Aïe la nga, naïne, à la niette. Non, nein, no, nada à la niette. Aïe la nga, naïne. Déjà petit, trop de personnes voulaient prendre place dans mon cockpit sans même s'intéresser à moi, sans plébiscite. Mais ma conduite explicite, attitude interdite, fait de moi le parasite. L'engraineuse, mon catalogue me pousse vers l'exit, j'en deviens trop haineuse. Je me braque, ça m'exaspère, on dit que je suis teigneuse. Je me fâche si je n'ai pas ce qu'on me doit, bougonneuse. Et là on me trouve capricieuse. Des mots ininterrompus à m'en donner des otites. Maudite, quand je m'attaque aux théories, je les discrédite. J'irrite le commun des mortels, je détériore telle une rebelle. J'avoue, je fous le bordel. Je tombe les cloisons, je sors de mes gonds. Prends ton droit, sers-en toi. C'est facile de crier non. Inutile pour ça d'avoir des ronds. Si je vois que je sature trop, je lance mon juron. Non, nein, no, nada à la niette. Aïe la nga, naïne, à la niette. Non, nein, no, nada à la niette. Aïe la nga, naïne. Un peu moins petit, faire 15-16. Déferlement de bourrage de crâne, j'en deviens obèse. J'exagère, mais je rejette toute forme de charentaise. Morale ou mentale, t'as beau tout faire pour qu'elle me plaise. Impossible, y'a pas moyen, assurément, t'as dû te bourrer de cible. Apparemment, toi et moi, on ne lit pas la même Bible. C'est inadmissible, pour ne pas dire indigestible, que ce soit moi la nuit. Arrive, arrive l'époque innocente, soi-disant jeune, adolescente, où t'es inconsciente, où trop souvent j'entends dire je suis une délinquante, non, je suis une maniérée ou que j'ai des manières inconvenantes. Non, nein, nada à la niette, aïe la nga, naïne, à la niette. Non, nein, no, nada à la niette, aïe la nga, naïne. Rarement dans les rangs, j'ai des transpires à contre-courant. Je pousse des soupirs, mais c'est déconcertant. Vois dans mon calme apparent de la nonchalance, dans ma distance, de l'ignorance, mon indépendance. E allora con Bams che ci cantano no, no, no, no. È chiaro, no? Ne do niente. No, niente, nada. Iniziamo la trasmissione redazionale di questa mattina, che alla fine ce l'ho fatta a imporre, no scherzo, il mio titolo che mi piaceva, che è Gli occhiali viola. Ora il titolo non so se vi comunica qualcosa, a me mi dice tantissimo, perché gli occhiali viola sono la lente femminista attraverso cui noi vediamo la realtà sempre costantemente, perché questi occhiali viola ce l'abbiamo attaccati. Il sottotitolo è appunto La violenza degli uomini e delle istituzioni sulle donne e le intersezioni fra le varie oppressioni di classe, razza e genere. Abbiamo deciso, perché abbiamo deciso anche questa mattina di parlare, di fare questo spazio redazionale? Intanto volevamo salutare anche le compagne di Torino che sono in diretta con noi e che oggi collaboreranno insieme a noi a questo redazionale. Ciao, ci siete? Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti, buon 8 marzo di lotta tutto l'anno a tutte voi. Anche a voi, siamo veramente contenti che anche quest'anno siamo riusciti a collaborare in qualche modo. Voi ci ascolterete, insomma sarete con noi per tutto il tempo. Ora magari tra un po' attacchiamo, così non dovete stare tutto il tempo in silenzio, però ovviamente vi invitiamo a intervenire ogni qualvolta ne abbiate la necessità. Comunque dopo interverrete nello specifico con una riflessione su violenza di genere e classe, quindi direi che potremmo cominciare redazionale. Intanto vi salutiamo e vi ringraziamo e poi ci risentiamo tra un po', va bene? A dopo. Ok, ciao, grazie a tutte. Aspettiamo la vostra chiamata. Ciao. Ok. Ciao. Riprendiamo il discorso e appunto lo riprendiamo da... stavamo dicendo il titolo agli occhiali viola perché il femminismo non è un tema, non è un argomento. Il femminismo è un modo di vedere e stare al mondo e quindi leggere la realtà, tutto quello che ci circonda, con degli occhiali speciali che abbiamo sintetizzato in viola, perché qua dentro apparecchi e rosa non piace ci sembra un po' etero imposto come colore. Detto questo, appunto parliamo di violenza violenza, ma ovviamente la prima forma di violenza che ci viene in mente è quella sui corpi, la violenza degli uomini sulle donne, ma la violenza, insomma, la possiamo declinare attraverso molti elementi, e quindi non sarà l'unica violenza di cui vogliamo parlare, questa appunto sui corpi delle donne. Ne parliamo già da stamani, ne parliamo ogni martedì, ne parliamo ogni giorno, però ci sembra ancora più importante, ci sembra particolarmente importante ricordarlo anche oggi, ricordando che la violenza non è mai neutra, che nel mondo ci sono rapporti di potere e che quindi, essendo, lo dico proprio in sintesi, che questo, il mondo in cui viviamo, è basato su un sistema che prevede la subordinazione di un genere, di un sesso all'altro, così come vede la subordinazione di una classe all'altra e anche una gerarchia razzizzata, perché le razze biologicamente non esistono, ma secondo le categorie del potere esistono. E siccome è tutto ciò, quando si parla di violenza non se ne può parlare in maniera neutra, perché la violenza è appunto esercitata dai maschi sulle donne in un sistema di potere molto preciso, che prevede per esempio anche l'obbligo all'eterosessualità. Ne cominciamo a parlare in questo modo. Sì, che si chiama patriarcato, lo possiamo nominare lui, questo sistema. Sì, quindi ci sembrava importante fare questa trasmissione oggi, in questo giorno che dopo tantissimi anni, stamattina abbiamo ricordato un po' la storia, che in realtà è una storia di lotte delle donne, delle operaie, per affermare se stesse e i propri diritti, la propria autonomia, e poi e quindi in qualche modo antesignana poi di quello che è il femminismo, ovvero una lotta di liberazione delle donne per se stesse e per tutti, perché senza le donne non c'è rivoluzione, come diceva uno slogan spagnolo abbastanza conosciuto, sin mujeres no hay revolución, e quindi siamo qui a voler mettere in campo un po' questo discorso, perché ci sembrava in qualche modo anche importante dare voce ai nostri pensieri, un po' che sono quelli della redazione del martedì, autogestita femministe e lesbiche, e di riportare al centro della riflessione quanto sia importante non dimenticare che è necessario, per quanto riguarda questo è il nostro poi femminismo, ovviamente nel mondo e in giro ce ne sono tantissimi altri, ma nel nostro femminismo è importante sapersi nominare, e quindi anche sapersi posizionare nello spazio, che sia il margine, che sia il centro, un po' e facendo su e giù tra questi due luoghi, come diceva Bell Hooks stamattina, che abbiamo letto all'alba per chi era ai microfoni, ma che in qualche modo potrete anche recuperare poi dai podcast. Il posizionarsi ci rende possibile aprire a un discorso contro egemonico, perché appunto parliamo di sistemi che sono poi sistemi di potere che si intersecano tra di loro, formando delle gerarchie e decidendo appunto quelli e mettendo in campo di fatto poi nella vita quotidiana di tutte e tutti chi agita è la violenza e chi in qualche modo ne è bersaglio. E comunque agita e comunque permette di non fare cambiare questo sistema di oppressioni, comunque è l'arma che è messa in campo da una classe sull'altra, o comunque dal gruppo che opprime sull'altro gruppo, in modo di mantenere i privilegi di alcuni su alcune, o di alcuni su alcuni, o alcune su alcune, cioè. Sì, e questo discorso del centro e del margine che faceva prima Claudia cioè voglio dire, noi l'abbiamo molto presente, nel senso che il centro e il margine non sono fissi, sono dinamici, e soprattutto abbiamo presente che esistono più centri e più margini, per cui noi sappiamo benissimo, per esempio, di essere privilegiate in quanto bianche, in quanto europee, sappiamo, e d'altro canto però ci troviamo in un rapporto di subordinazione per il nostro genere, per l'eteronormatività, per la nostra classe, però appunto il centro e il margine non sono fenomeni assoluti. No, sono situati storicamente e geograficamente, quindi per questo è in qualche modo necessario avere coscienza e consapevolezza del proprio posizionarsi nel mondo, perché questo posizionarsi, come appunto racconta anche Adrian Rich nella politica del posizionamento, è fonte di forza. Di forza per resistere e lottare per appunto la libertà e il cambiamento delle proprie condizioni. E a questo proposito, Sister delle Tribad. allora rieccoci in compagnia dello spazio redazionale dal titolo Gli occhiali viola, che sono appunto la lente che non possiamo mai levarci, attraverso la quale analizziamo il mondo, che è una lente femminista, antisessista, e poi vedremo che di questo concetto ne fanno parte tanti altri ismi o isti appunto che da lì nascono, dalla nostra visione femminista. La nostra visione femminista chiaramente è anche una visione materialista, quindi, e per cui vede la società divisa appunto, oltre che in classi, anche in generi, che sono classi di uomini e classi di donne, e che è strutturale, appartenente strutturalmente al sistema, questa divisione, anche se è una costruzione del sistema e delle oppressioni, non è una divisione biologica. Il sistema è quello patriarcale, eterocentrista, eterosessuale, sessista, è il sistema per cui, per esempio, la giornata di lotta delle donne dell'8 marzo viene chiamata la festa della donna. Allora, oltre al concetto festa, di cui appunto abbiamo parlato chiaramente che non ci appartiene, ma non ci appartiene a noi neanche il concetto di donna, perché quando parli di donna parli qualcosa di astratto, è come una grande essenza, una universale, sì, o E questo concetto dimentica completamente tutte le differenze, ma soprattutto dimentica il fatto, nasconde il fatto che le donne appunto sono un gruppo sociale, e come gruppo sociale sono oppresse all'interno del sistema patriarcale. Per questo anche noi diciamo che la nostra analisi femminista è radicale, nel senso che va a indagare le radici, il percorso che abbiamo alle nostre spalle, ma anche quali sono le radici dell'oppressione delle donne. Diciamo che negli anni le nostre analisi sono andate poi piano piano, fortunatamente, evolvendosi, per cui accanto alla violenza maschile degli uomini all'interno della famiglia sulle donne, abbiamo poi aggiunto chiaramente la appunto, anche per il discorso che facevo prima, la violenza delle istituzioni sulle donne, la violenza dello Stato, oltre che appunto del sistema generico, e quindi anche la violenza attraverso dei sistemi e dei dispositivi di controllo, per esempio la violenza delle donne nei CIE, la violenza sulle donne operata dai militari sia in territori occupati che di guerra e con territori occupati, intendo quelli anche di casa nostra, chiaramente. Però forse possiamo fare un passo indietro. Nel 2007 lo slogan era l'assassino alle chiavi di casa, no? Per cui abbiamo messo al centro il fatto che la violenza inizia, o uno dei luoghi in cui maggiormente viene colpisce le donne è proprio la famiglia, e quindi la violenza dei partner, la violenza dei mariti, la violenza dei padri, degli insegnanti a scuola, dei datori di lavoro, anche nel senso non necessariamente in famiglia, ma comunque la violenza sessuale degli uomini vicini alle donne. Questa violenza ha una spirale, di solito arriva allo stupro e anche al femminicidio, ma di solito inizia a spirale e poi piano piano cresce, e prima di tutto parliamo di violenza psicologica, per cui di intimidazioni, ricatti, sminuimenti, non mi viene la parola, scusate. E la seconda fase poi è l'isolamento, cioè gli uomini violenti tendono a isolare le donne, per cui a allontanarle da altre donne di riferimento per loro importanti, sia nella sfera amicale, familiare, ma anche nella sfera lavorativa. La segregazione, cioè spesso portato avanti attraverso la gelosia, che si traduce anche in allontanamento delle donne dal lavoro e quindi dipendenza economica. La seconda grande forma di violenza dei mariti è la violenza economica, poi c'è la violenza del sistema violenza economica, del sistema capitalistico, che è un'altra cosa. E poi diciamo che quando si mettono insieme sono proprio guai. E poi arriviamo alla vera e propria violenza sessuale, che è fatta di molestie, abusi, dal palpeggiamento fino allo stupro e all'uccisione, al femminicidio. Diciamo che tutte queste forme di violenza citate poi oggi rientrano sotto la voce femminicidio, che è questo concetto che da qualche anno ci attraversa e che da qualche tempo è diventata legge, purtroppo, che non ci piace, ci lamentiamo sempre, ma no, poi comunque fa proprio parte della struttura di classe tra i sessi, nel senso che c'è una classe che comunque si dà il permesso di appropriarsi dell'altra classe, non solo simbolicamente, ma anche nel livello più intimo, più forte, che è l'appropriazione dei corpi come un oggetto che può essere utilizzato per piacere, per coercizione, per punire. E questo comunque è declinato sia nelle famiglie che nella sfera, cioè nella strada, che nell'utilizzo dell'immagine del corpo di una parte dell'umanità come strumento dell'altra classe, che può utilizzare come vuole. E l'abbiamo detto tante tante volte, ma credo che non siano ancora sufficienti, insomma, per quello che vediamo intorno a noi. La violenza sulle donne la fanno gli uomini, e questi uomini appartengono a tutte le parti del mondo, praticano tutte le religioni oppure non ne praticano nessuna, appartengono sono a tutte ricchi, le classi poveri. Sociali hanno tutti i lavori, e soprattutto il fatto che purtroppo l'abbiamo detto tante volte, c'è una retorica razzista che vuole che l'immigrazione da alcuni paesi abbia portato la violenza sulle donne, e purtroppo non è così, cioè nel senso che appunto la violenza sulle donne, come si stava dicendo fino a qui, è strutturale e quindi chi esercita violenza non ha un passaporto specifico. Insomma, l'abbiamo detto tante volte, ma anche guardando i giornali stamani evidentemente c'è ancora bisogno di raccontarlo. Sì, sicuramente questo, e in realtà poi quello che volevamo poi evidenziare, quanto serva poi appunto questi, quanto servono questi occhiali viola per poter in qualche modo, è come se disvelassero tutte le davanti a te tutte gli intrecci delle gerarchie di potere e delle intersezioni, perché come diceva Daria prima, in realtà il nostro femminismo ha fatto tanta storia, ha scoperto e letto insieme tante altre pensatrici, in qualche modo su certe cose ha dovuto fare anche una fortissima autocritica, quantomeno qui in Occidente, in Europa occidentale, quando sono giunte a noi tutte le riflessioni delle pensatrici lesbiche, nere e del, insomma, di quello che viene chiamato oggi il femminismo post-coloniale, con una forte critica e una chiara richiesta di essere in grado di leggere quelle che sono le intersezioni tra genere, classe e razza, e quindi di comprendere qual è la dinamica delle oppressioni, per poter poi appunto mettere in campo delle lotte di resistenza e di liberazione, è abbastanza fondamentale. E l'altra cosa che comunque volevamo anche sviluppare è come le donne sono di più messe fuori, perché stiamo parlando delle strategie o dei meccanismi in cui il sistema patriarcale, eterosessista, eterosociale, lo chiamiamo come vuole, agisce in certa violenza, o agisce in modo di fare tacere le donne, di comunque fare che questo gruppo tempo rimane sotto controllo, e uno dei punti comunque che si vede proprio in questi anni rinforzare il fatto di recludere le donne nei spazi privati, nelle case, e di sia dal fatto che scomparisce il lavoro, e questo ne parleremo dopo, ma comunque rinchiude le donne all'interno delle case, sia sul fatto che sono aggredite di più quando sono nelle sfere pubbliche. Per esempio avevamo, cioè, come esempio questo articolo dell'Internazionale due settimane fa, in cui si vedeva anche sulla rete le donne subiscono a partire del momento in cui comunque vogliono esprimere il diritto di, cioè, spesso sono delle donne che hanno di occupare lo spazio pubblico, infatti, che internet rappresenta, subiscono violenze, insulti, aggressioni, minacce di morte. L'Internazionale dice: sembra che su internet basti essere donne per attirare insulti. L'articolo è di una giornalista che si chiama Amanda S., un articolo che è uscito negli Stati Uniti. E per esempio racconta come, secondo un rapporto pubblicato nel 2005, se da 3.700 persone che hanno denunciato episodi di questo tipo, il 72% erano donne. La violenza può diventare anche fisica. Da un altro rapporto è emerso che al 5% le donne che usano internet è successo qualcosa online e che le ha messe fisicamente in pericolo. Sono tante le testimonianze di donne che hanno deciso di non più esprimersi su internet, dunque in un media che comunque è molto importante in questo momento a livello del mondo. Buttare fuori le donne ha una conseguenza molto importante su l'autostima, l'autodeterminazione, la voglia di uscire e di appartenere al mondo, e anche sulla possibilità di sapere che ci sono altre, e che appunto si può tessere, come in realtà dovrebbe essere la rete, dei rapporti di solidarietà per rendere più forti il proprio pensiero. In realtà le donne su internet fanno anche questo, fortunatamente. È molto vero quello che si dice, e ne abbiamo numerosi esempi da casi molto più istituzionali. Io ricordo che anche al martedì abbiamo fatto un mini pimer, quando, ma proprio all'inizio, uscirono le prime questioni nell'occupare lo spazio pubblico. Allora due figure molto istituzionali, una ancora presidente della Camera, la Boldrini, ma anche la ministra Kyenge, e ci furono tanti, sono proseguite perché continuano anche adesso, e la matrice degli insulti è sessista. Questa cosa resta evidente, non è molto difficile che vengano insultate per questioni che riguardano o meno il loro livello professionale, o comunque appunto la contestazione di scelte o posizioni di questo tipo. Molto spesso la via più semplice per poi cercare di metterle a tacere anche loro è sempre quella dell'insulto che riguarda il corpo, la bellezza, lo stare nello spazio pubblico, e quindi l'insulto. Anche lì sono state, anche la presidente della Camera stessa è stata minacciata di morte e varie altre di stupro, anche, insomma, gli hanno dato di ogni. È chiaro che quando si occupa lo spazio pubblico, e tra l'altro parliamo di, noi l'avevamo detto anche in quel redazionale, di figure che si pongono delle questioni che sono un cioè hanno cercato di tenere delle posizioni sulla violenza sulle donne, per esempio, un po' più forti del solito, e sono state immediatamente attaccate. Ma questo significa e si traduce anche che quando ci sono delle blogger molto radicali, che hanno dei blog molto radicali, dove appunto sanno nominare la violenza e sanno posizionarsi rispetto a quella, sono frontalmente attaccate appunto dagli uomini, e il tentativo che c'è è quello di espulsione dalla sfera pubblica, sia a livello anche quotidiano, anche bisognerebbe indagare un po' cosa succede nelle scuole, nei gruppi dei pari, quanto le donne che poi esprimono, o le giovani lesbiche che esprimono forte un posizionamento altro, non vengano messe ai margini. Ma noi poi di quei margini ci vantiamo, ed è anche questo un altro di questi dei punti di forza, proprio perché è proprio dal margine che si può partire per ritornare al centro. Il margine non è una condanna, ma è una sfida alla nostra creatività. Questo lo diceva sempre Bellux, non sono parole mie, non me ne vorrei mai appropriare così. Visto che citavi le donne nelle istituzioni, un discorso che mi sembra a questo collegato è quanto nell'immaginario che i media ci propongono ci sia da una parte appunto una presunta e sbandierata parità, e dall'altra parte invece una espulsione violenta da ogni tipo di sfera pubblica, perché per esempio tutti gli attacchi che abbiamo visto in internet, e che anche alcune di noi, alcune attiviste subiscono, è una espulsione, un tentativo di espulsione violento. Dall'altra parte appunto ci dicono che c'è stata raggiunta la parità, almeno per quanto riguarda le ministre, perché questo governo ecco, chiariamolo, ho sentito anche che lo dicevate stamattina in rassegna stampa, richiariamolo un'altra volta, a noi questo non interessa. Mi ha fatto veramente orrore vedere la foto delle 5 ministre della difesa all'incontro, al meeting, al summit della NATO. Ecco, no. Non è questo il nostro femminismo, assolutamente, non è partecipazione di questo tipo, non è rappresentanza di questo tipo. Il nostro femminismo è di base, il nostro femminismo è anticapitalista, il nostro femminismo è antifascista, il nostro femminismo è antirazzista, il nostro femminismo è un femminismo che vuole e cerca di costruire alleanze con altre donne, a partire dalle lotte che possiamo fare insieme, a partire dalle oppressioni che... A partire da sé, a partire da noi stesse. Okay. Beh, poi corpi. Se posso aggiungere qualcosa, questa non posso. No, non puoi, perché sennò perdo l'argomento. E no, quello che mi preme di sottolineare è che nella visione, diciamo, socialdemocratica della questione della parità, appunto, se una ministra nera riceve molti insulti, come è successo in questo paese, poi, come dire, le ben pensanti delle istituzioni, anche quelle che si collocano nella parte un po' più a sinistra del Parlamento, cioè si scandalizzano, ma nessuna di loro apre un minimo lo zoom su cosa succede a tutte le altre che nemmeno sono ministre, e che però sono nere, sono donne, sono immigrate in questo paese, sono povere, eccetera eccetera. Questo assolutamente, a questo non è servito il dibattito sulla Kyenge, e questo mi sembra evidente di cosa significa, insomma, questo ragionamento sull'intersezione delle oppressioni, e quindi sulla necessità dell'intersezione delle lotte. Per chiudere, per riallacciarmi però a un discorso che veniva fatto forse un po' di tempo fa, quello dell'isolamento, anche noi, cioè l'isolamento è anche autoisolamento, ma non in senso per motivazioni psicologiche. Il problema è che questo sistema economico, politico, culturale sta da anni disintegrando gli spazi sociali, gli spazi di incontro, e quindi la civiltà politica delle soggettività. Noi stesse ci rendiamo conto quanto oggi è più complesso avere spazi collettivi, anche momenti momenti della propria giornata che accedono a spazi collettivi rispetto a quando lo era qualche anno fa, e questo spezzettamento non può che indebolire le donne, non può che essere qualcosa contro cui noi dobbiamo assolutamente tenere alta la guardia, ricostruire relazioni, ricostruire spazi, ricostruire percorsi collettivi, perché le donne da sole ovviamente non vincono, mettiamola in sintesi. Non vincono. Tutti questi discorsi si fanno un po' rabbia, eh? Io direi. La Rage di Kenny Arcana. E vabbè, si vede che sono un po' arrugginita al mixer, ma ce la posso fare. Rieccoci. Eccoci. E dunque, stavamo parlando di tutte il fatto che le violenze del patriarcato, come si esercita sulle donne. Cioè, e volevamo parlare un po' delle violenze economiche. Abbiamo assistito adesso tra 20-25 anni alla globalizzazione economica che si è imposta in tutto il pianeta, che comunque consiste a una profonda riorganizzazione del sistema di produzione, di distribuzione, di consumismo a livello globale. E una cosa che si vede un'economia che cresce, che si finanzia e che si distacca dal mondo sociale. Questa globalizzazione non è andata per nulla verso più di uguaglianza o più di di libertà sociale. Al contrario, una delle cose che possiamo constatare è l'aumento del divario delle ricchezze. Se vogliamo guardare i 10% delle persone più ricche hanno concentrato sempre di più le risorse. Siamo passati da 30% negli anni 40 a 45% negli anni 2005. Quando si tratta della crescita economica tra 2002 e 2005, è stata alta, ma non ha profittato a tutti. 1% delle persone le più alte, diciamo, nella scala sociale ha guadagnato, per esempio negli Stati Uniti, 268 miliardi di dollari, mentre 50% nel basso ha perso più di 300 miliardi. Dunque non andiamo verso un mondo uguale. E in questa globalizzazione non liberale, la cosa che è abbastanza interessante è di vedere che tutti i sistemi di sfruttamento si sono rinforzati. Il sistema di classe, il sistema razzista e il sistema di patriarcale globale. Le conseguenze sono state, se vogliamo guardare come la liberazione del mercato ha fatto che sono state espropriate delle terre da molte contadine, un mondo rurale in cui molte persone si sono dovute lasciare le terre per andare a fare crescere le grandi città. Questo per dire come una parte di persone non privilegiate in questa pianeta si sono spostate. Si vede anche molti movimenti migratori forzati, perché una grande parte della popolazione mondiale si sta adesso a trovare la forza o i mezzi per sopravvivere. Le femministe, le economiste femministe dentro questa globalizzazione hanno dimostrato che queste politiche di apertura dei mercati, di liberi scambi, dei mercati senza regole, ha implicato che le condizioni di lavoro delle donne si sono deteriorate, in questo pianeta, in questa organizzazione economica, cresce l'offerta di alcuni lavori e concentra un carico di lavoro molto più alto. Nel senso, per esempio, si vede che le donne a livello mondiale sono molto molto adesso spinte verso dei lavori di servizi, che siano sia dei servizi sessuali sia dei servizi di care, mentre il tipo di lavoro per gli uomini e piuttosto per gli uomini non privilegiati di questo pianeta, è stato di spingerle lì verso dei mestieri con armi, che siano nelle paesi di pace, per esempio di sorveglianza, di milizie o dentro i conflitti armati sul pianeta. Questo è importante perché, come dicevano alcune economiste femministe, dicono che comunque leggere la globalizzazione si vede veramente come dentro la globalizzazione i rapporti di sessi sono trasformati. E non nel senso di più eguaglianza, non nel senso di più come dire, di più equilibrio tra i due sessi, ma c'è comunque un rapporto che si cristallizza, che si com'è? Che si voilà. E dunque alcune ritengono che il genere è un organizzatore chiave della globalizzazione, chiave nel senso che il genere permette di capire le dinamiche di classe, di razza e i movimenti migratori, chiave nel senso che le donne sono le prime a subire la globalizzazione economica, perché essendo già dentro i più poveri si impoveriscono ancora di più, è chiave anche perché sono quelle che sono anche al centro delle principali resistenze e analisi e a dare degli alternativi a questa a questo fatto economico. Sono anche quelle che sono più nella resistenza e costruiscono di più i gruppi di resistenza e le modalità alternative di organizzazione. Sì, a proposito di questo, negli ultimi anni, a partire più o meno dal 2008, si parla a livello globale e in particolare poi se ne parla in Europa, in Italia, di crisi economica. Ora, e quindi insomma di indebolimento delle persone davanti al capitale. Ora, a parte che insomma noi partiamo da un presupposto che è un caposaldo, insomma è anche molto visibile nel mondo, che il capitalismo è violento di per sé e quindi è evidentemente una forma di violenza esercitata su tutte e tutti, e il neoliberismo, insomma, lo è stato detto adesso in sintesi, che è una delle versioni del capitale, del capitalismo lo è in maniera evidente, smaccata. Dicevo, dal 2008 si parla di crisi economica, ma noi adesso c'è molto chiaro che cos'è questa crisi. Di fatto si tratta di una ristrutturazione del capitale verso l'alto e quindi del polarizzare le risorse economiche sempre di più nelle classi più alte, in un numero più ristretto, e impoverire masse di persone. Questo avviene nell'opulento occidente, questo avviene nei paesi che stanno emergendo, questo avviene nei paesi che tuttora sono molto poveri. All'interno di questa ristrutturazione del capitale di nuovo sulle donne c'è una specifica oppressione che porta di fatto le donne a essere espulse dalla sfera del lavoro. Noi ricordiamo che qualche anno fa, nella prima parte diciamo del decennio del 2000, del primo decennio del 2000, si parlava molto di femminilizzazione del lavoro, intendendo con questo sostantivo un lavoro a cui venivano tolti diritti e capacità salariale per le donne. Questo tipo di lavoro quindi venivano, come dire, assunte donne o altri soggetti reputati meno forti, come per esempio uomini immigrati in alcuni settori, e per femminilizzazione del lavoro si intendeva quindi appunto immissione nei posti di lavoro di soggetti più deboli, prime tra tutte le donne, però con un lavoro che era peggiorato, insomma, quindi con meno diritti, meno salario e più doveri. Ecco, a noi sembra che oggi, grazie a questa cosa che viene chiamata crisi, ma che di fatto è una ristrutturazione del capitale, non si possa più parlare nemmeno di questo, perché la femminilizzazione del lavoro, se vogliamo usare questo sostantivo, ormai è dilagata. Il lavoro è peggiore, meno sicuro, con meno diritti e con meno salario, e ha più ricattabilità per tutte e tutti, mentre le donne in massa sono proprio espulse dal mondo del lavoro, cioè, e questo non importa nemmeno andare a leggere le statistiche dell'Istat che venivano molto citate anche stamani, insomma, sui giornali. L'Italia è uno dei paesi con più alta disoccupazione femminile d'Europa, il sud Italia con dei numeri enormi, ma di fatto credo che sia un fenomeno molto più vasto, insomma, dello specifico italiano. Adesso mettiamo due note musicali per passare anche, o forse anche no, perché abbiamo No, io le saluterei direttamente. Rieccoci in diretta. Ciao. Ci siete? Ciao a voi. Allora, le voci che sentite in sottofondo sono quelle delle compagne del collettivo femminista Medea di Torino, che ci hanno seguito finora e che partecipano anche loro, come è tradizione tra l'altro nostra, di scambio di contributo radiofonico, perché le ricordiamo, le compagne, alcune delle compagne Medea sono anche molto attive all'interno di Radio Blackout di Torino, e quindi la parola a voi. Ciao. Ciao, ciao a voi. Intanto, appunto, molto felici, come ricordavi tu prima, di intervenire di nuovo in una collaborazione radiofonica per l'8 marzo. E intanto complimenti per, come dire, le tematiche che avete scelto per questa giornata, per questa parte redazionale, che ci vedono assolutamente d'accordo e convinte. Riguardo appunto all'intersezione in particolare tra la violenza di genere e il concetto di classe, siamo assolutamente convinte da sempre che non si dà un femminismo realmente radicale senza una sana iniezione di anticapitalismo, e che anzi, come dire, ogni femminismo che non ponga l'accento sull'anticapitalismo e che non coniughi, come dire, la lente di genere con quella di classe non abbia nemmeno senso di esistere. Dico questo e quindi, come dire, comincio con una nota polemica, perché insomma sulla questione violenza di genere, di cui soprattutto quest'anno mi pare i media e molti soggetti istituzionali si sono appropriati e si appropriano sempre più. E notavamo che appunto quando in questi discorsi, come dire, più allargati, più mediatici, più istituzionali, si parla di violenza di genere, viene non solo rimosso il soggetto, cioè il soggetto maschile, il soggetto della violenza sulle donne, ma viene rimosso e non viene nominato il dispositivo sociale economico, cioè il capitalismo, che all'interno del quale, come dire, la violenza di genere si può esplicare. E quindi è assolutamente importante sempre, secondo noi, nominare, oltre al soggetto della violenza, anche il dispositivo capitalistico, che appunto utilizza con una morbosità sempre più vitale, con una capacità di adattamento rapidissima, la subalternità femminile al fine di valorizzare esponenzialmente il capitale. E per usare una vecchia espressione sempre valida, mi verrebbe da dire che il padrone plus gode non soltanto di questi tempi con la finanziarizzazione dei mercati e con la favola dell'indebitamento e con la parola schermo crisi, che ho sentito citare da voi anche prima, e dico parola schermo perché appunto dal mio punto di vista la crisi è, come dire, il nome che si dà ad un effetto di superficie, per quanto tragico e fatale, importante nelle esistenze quotidiane degli individui, ma che in realtà corrisponde a un più profondo, un più radicale reengineering, a una ristrutturazione, come dicevate voi prima, del sistema capitalistico globale tout court. Quindi il padrone non solo plus gode in questo senso, ma anche con e della subalternità femminile, perché ricordiamolo, le donne sono le prime espulse dal mercato del lavoro quando aumenta la disoccupazione, e quindi sono anche le prime ad essere risospinte a forza e violentemente nella sfera del privato, perché poi questo significa, molto spesso anche tornando ad occuparsi del lavoro di cura, perché appunto i tagli del welfare poi significano questo, significano le donne che tornano a casa, appunto espulse dal mercato del lavoro, costrette appunto nella sfera del privato a fare il lavoro di cura che insomma che per secoli ci è stato imposto quasi come se fosse coessenziale alla natura del femminile. E, era molto interessante anche prima il riferimento che facevate al concetto di femminilizzazione del lavoro che avete ben definito, perché appunto la femminilizzazione del lavoro non riguarda soltanto il lavoro delle donne femminile in termini di precarizzazione, di perdita di qualità, di qualità dei diritti sul lavoro, ma come dire, viene femminilizzato anche il lavoro maschile. Ed ecco che appunto quindi la lente di un femminismo anticapitalista diventa veramente essenziale, e vorrei dire essenziale anche per i maschi, come dire, per i maschi, per gli uomini che si occupano di queste cose, che lottano per queste cose, per cogliere a pieno la portata, l'entità e gli effetti dello sfruttamento del sistema capitalistico. E, proprio perché appunto la subalternità femminile è del tutto funzionale al sistema e a questa appunto esponenziale autovalorizzazione del capitale, così come lo sfruttamento del lavoro migrante, la crescita della disoccupazione, eccetera eccetera. Per cui, come dire, quell'esercito di riserva di vecchia data, di vecchia conoscenza, così funzionale alla valorizzazione del capitale, è un esercito di riserva che poi si scopre essere composto in larga parte da donne subalterne. E quindi appunto non si dà lotta di classe che non sia coniugata con una lettura femminista dei rapporti sociali. Un attimo che devo... Sì, scusate il sibilo che le ascoltatrici e gli ascoltatori hanno avuto nelle orecchie. Sì, siamo d'accordo. Fra l'altro il cambiamento, il peggioramento delle condizioni lavorative ha aspetti differenti, per esempio sull'orario di lavoro. Non so perché, questo per me è un paradigma, forse perché non mi piace lavorare, diciamolo, però per me è un paradigma abbastanza interessante. Cioè, da una parte assistiamo a un aumento del part time obbligatorio, il part time imposto, no? Cioè, nel senso che uno dei fenomeni della femminilizzazione e quindi precarizzazione del lavoro è stato l'aumento di posti, l'espulsione di lavori a tempo, di lavoratori e lavoratrici a tempo pieno, e l'aumento di lavoratrici part time. Dall'altra parte però invece abbiamo perso le compagne, forse adesso le proviamo a richiamare, finisco semplicemente il concetto. Dall'altra parte abbiamo invece un'altra categoria di lavoratrici, che sono le badanti, che sono costrette per contratto nazionale collettivo di lavoro del 2007 a lavorare 56 ore a settimana, no? Quindi anche qui assistiamo a differenziazione e comunque sempre a imposizione di ricatti economici lavorativi per quanto riguarda le donne. E su questa questione del ricatto lavorativo sottolineerei un'altra delle interconnessioni, insomma, tra le oppressioni, che si vede molto bene sul lavoro delle cosiddette badanti, di quelle che in Italia sono state nominate badanti, nel senso che sono donne che vengono da altri paesi, che fanno un lavoro che è, come dire, la summa di tutti i ricatti possibili, perché è un lavoro di cura. Spesso queste donne vivono in casa dei loro stessi datori di lavoro, lavorano una quantità di ore spesso molto superiore a quello di un qualunque contratto. Oltre a questo, però, è uno dei pochi modi per chi vuole entrare in Europa per entrarci. Cioè, le donne migranti che vogliono entrare in questo paese possono entrare o come badanti o come mogli. E questo mi sembra una connessione tra razzismo, classe e genere molto evidente. E di più, cioè, non è solo queste donne che vengono, ma c'è anche un'organizzazione tra tra, internazionale tra stati su questa cosa là, perché il rafforzamento del fatto che i paesi del nord, diciamo, no, come concetto storico e politico, il nord, non geografico, diciamo che il fatto che i paesi del nord sono di più ricchi e che i paesi del sud sono di più impoveriscono, comunque costrene gli stati del sud a mandare, diciamo, la manodopera e la gente a andare nei paesi più ricchi, in modo che comunque mandano soldi dentro il paese di origine. Comunque è una chiave anche molto importante su gli scambi di soldi tra i paesi. E poi secondo me anche è importante quando parliamo di costruzione di alleanze fra femministe e con e di lotte di donne, sapere che le condizioni lavorative, per esempio, ma non solo, anche appunto dicevate prima, le donne immigrate possono venire in Italia solo per un certo tipo di lavori che sono quelli di servizio, a livello simbolico opera chiaramente anche una transazione, so come dire, nel senso che, cioè, per le donne sono previsti, sono possibili solo i lavori di cura, non solo per le donne immigrate, cioè per le donne immigrate realmente, per tutte le donne comunque a livello potenziale o a livello simbolico. Sì, e anche il fatto appunto che le donne immigrate possono venire qua per svolgere solo un certo tipo di lavoro oppure per il ricongiungimento familiare, quindi come mogli, è un simbolicamente agisce molto forte, in maniera molto forte, anche su chi invece ha un passaporto di quelli europei, perché significa che evidentemente ci sono dei modi di viversi come donne che sono più istituzionalmente accettati di altri. Non so, ci sono le campagne. Sì, ricordiamo che abbiamo di nuovo collegato telefonicamente le compagne di Medea, quindi non sappiamo se avevate finito il vostro intervento, se volete aggiungere. Siete lì. Ciao, vi sentite? Sì. Sì, sì. Ok, ma se possiamo spostare di poco, insomma, la traiettoria del discorso, volevamo così anche concludere con una provocazione, nel senso, definite insomma tutte le intersezioni di cui sopra, quindi come si diceva appunto, non c'è femminismo se non è un femminismo anticapitalista. Allora ci viene da chiederci, ma un movimento antagonista, anticapitalista, come quello a cui apparteniamo, come quello a cui facciamo riferimento, che è la casa insomma di tutte le lotte che quotidianamente portiamo avanti, quanto deve in qualche modo farsi carico di questa tematica e quanta difficoltà incontri nell'affrontare la questione della violenza maschile sulle donne. Difficoltà che riscontriamo tutti i giorni, perché ci sembra che stia prendendo sempre più piede un trend di una violenza generica in cui il soggetto di questa violenza in primis non viene nominato, si parla molto spesso di una generica violenza sui corpi, quindi addirittura anche le donne spariscono da questo rapporto e dal ruolo ai noi di vittima, che in qualche modo sono costrette a così vestire in quell'occasione, e si abbracciano probabilmente tesi e pratiche a nostro parere più facili, no? Perché in qualche modo non generano conflitto tra compagni e compagne, non richiedono una messa in discussione dei ruoli e delle relazioni di un certo tipo, e forse allora ancora una volta toccherebbe a noi insomma provare a farlo, perché siamo responsabili in primo luogo come donne e come compagne anche degli spazi che abbiamo contribuito a costruire e a difendere, no? E siamo responsabili anche delle relazioni che in esse si praticano tra uomini e donne, siamo responsabili del clima, delle atmosfere che le donne da donne attraversano, subiscono, determinano proprio in quegli spazi, che si verrebbero organizzati rifiutando radicalmente e provando a eliminare rapporti di potere, sfruttamento e oppressione tra tra i generi. Noi pensiamo che sia davvero importante farlo, perché in momenti diversi e per episodi diversi è capitato un po' a tutte, un po' a tutte noi è costato prendere atto del fatto che non esistono per le donne né luoghi puri né luoghi neutri, e probabilmente dobbiamo anche farlo per dare un senso effettivo alle nostre lotte, a tutti i nostri interventi contro la violenza agita sulle donne fuori, con quel fuori intendo fuori dal movimento, perché sennò davvero il nostro lavoro e la nostra lotta probabilmente perde anche di senso e di significato se non partiamo da noi, dai nostri luoghi e dal mondo che insomma vorremmo contribuire a creare, non prima ovviamente di averlo trasformato radicalmente. Infatti, come noi siamo veramente molto d'accordo con sì, concordiamo completamente. Stavamo lì fuori dai microfoni a essere molto contenta di sentirvi dire questa cosa, che comunque anche perché una delle riflessioni che abbiamo fatto insieme è che in qualche modo la domanda che ci eravamo posta è se fossimo solo noi a fare questo tipo di riflessione, quindi dell'importanza non c'è sole, c'è vita su Venere. Ah, meno male, ecco appunto, sì. No, anche perché appunto aggiungerei soltanto una cosa a quello che diceva la mia compagna adesso, e cioè che insomma ci stiamo parecchio interrogando in questo periodo come collettivo, con le compagne, su alcune forme, anche all'interno del movimento, no? Di lotta delle donne, che ci sembra rimangano sempre, come dire, a livello, passatemi il termine, sovrastrutturale, no? Quindi culturale, dello spettacolo, come liberazione, tra virgolette, secondo me, come liberazione dei corpi, ma rimangono molto distanti appunto da un discorso invece ben più radicale, appunto quello che dicevamo prima, no? Classe, razza, e secondo noi invece ci sarebbe molto bisogno di riprendere forme di lotta femminista di questo tipo, no? Che non si facessero sedurre così dalle sirene della società dello spettacolo. Sì, siamo veramente, pensiamo anche noi, abbiamo fatto maturato insieme collettivamente queste riflessioni, e per questo ci avrete sentito prima, perché so che ci stavate comunque ascoltando, parlavamo di quanto sia importante situarsi e posizionarsi in queste lotte, che non è che le femministe negano la necessità o l'importanza di mettere o di avere un fronte comune con altre lotte che partono da altri punti. L'importante è sapere quale posizione si porta, dove si è e quindi come si sta guardando anche dentro quella lotta, e quindi di avere la lucidità e soprattutto di non perdersi, e quindi di essere visibile e di nominarsi. E quindi siamo molto d'accordo con quello che dicevate anche voi. Avevamo pensato di concludere questa trasmissione citando Audre Lorde. C'è stato pochi giorni fa a Roma la presentazione del libro che verrà poi stampato a fine maggio, di tutti gli scritti, tutti i saggi di Audre Lorde. Lo presentava Margherita Giacobino, che è quella che farà la traduzione, e ha detto una cosa molto interessante, perché alla fine la nostra domanda era: ok, i motivi che avete appena nominato sono quelli per cui abbiamo deciso di fare questo spazio, ma come lo concludiamo adesso questo spazio? Ecco, Audre Lorde si definisce, ci aiuta, sì. Lei si definisce, come sappiamo, nera, lesbica, femminista, guerriera, poeta, madre. Il concetto di guerriera lo spiega con una metafora, spiega la guerra con questa metafora. Dice: per vincere l'assediante deve fare molte cose, deve conquistare la città che assedia, deve buttare giù le mura, sconfiggere i nemici, superare le loro difese, ricostruire e così via. Per l'assediato la vittoria è semplicemente nel sopravvivere e nel resistere. Mi è piaciuta molto, ci è piaciuta molto questa idea, perché sposta in avanti la riflessione, nel senso che noi di solito diciamo la nostra lotta è una lotta di resistenza, a volte usiamo anche questo concetto in modo, in qualche modo negativo, dicendo la nostra lotta è resistenziale. Ecco, Audre Lorde dice la nostra vittoria è la resistenza, che appunto il continuare giorno per giorno a lottare, a poter lottare, è già una vittoria in sé, e quindi questa è la nostra vittoria. Vittoria. Pronto? Ci siete? Sì, scusa che ogni tanto va e viene la voce con questa viva voce. E niente, vi volevamo salutare, ringraziare anche quest'anno di essere state con noi, di aver condiviso idee e pensieri in questa mattina dell'8 marzo, in questa giornata di lotta appunto per le donne delle donne. E a questo, risentiamoci presto, magari iniziamo a fare un fronte comune. Ci risentiamo anzi nel pomeriggio, perché sarete in corteo anche a Torino come in molte città, e quindi ci risentiremo. Sì, sì, così magari durante le dirette del pomeriggio vi raccontiamo anche dell'azione di ieri contro i farmacisti obiettori. Ui, sì, perfetto. Allora, a più tardi. Salutiamo a voi, compagne. A più tardi, buona radio, abbracci. Ciao, abbracci, buona giornata, ciao. Di lotta. Ciao. E allora concludiamo con Famous Day, On Par de Parité. Il titolo della canzone cita tanti lavori che le donne, le operaie fanno. È in francese, ma si capisce. Spécialement dédicacé aux routières, aux cadrières, infirmières, jardinières, pâtissières, tapissières, biscuitières, joaillières, téléphonistes et machinistes, aux fleuristes, aux choristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux